Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Conduttore statunitense Larry King, dopo 25 anni di televisione e migliaia di interviste, lascia la sua creatura, il Larry King Live, che l'ho visto protagonista sulla CNN. A 76 anni, 53 anni e 50.000 interviste dopo l'inizio della sua straordinaria carriera televisiva e radiofonica, Larry King appende le sue leggendarie bretelle rosse al chiodo. Nell'aria da tempo, la decisione l'ha annunciata l'altra sera lo stesso giornalista in diretta TV. Il re abdica, titolano i quotidiani popolari, e King è stato davvero un re, di nome e di fatto. Ha creduto nella TV via cavo fin dai suoi albori, è stato il suo profeta, ha vissuto tutta la straordinaria epopea della CNN col suo Larry King Live, l'appuntamento quotidiano con le sue interviste che ha compiuto 25 anni poche settimane fa. Il giornalista dice che proprio quella settimana di celebrazioni e di interviste straordinarie l'hanno fatto riflettere. «Ho avuto ospiti Barack Obama, Bill Gates, Lady Gaga. Mi sono detto, cosa potrei mai fare di più?» In realtà il re se ne va e la ricerca di un successore è già iniziata da tempo perché il suo trono è ormai coperto da un cuscino di spine. King rimane un mito e le sue interviste, da Martin Luther King a Paul McCartney, da Marlon Brando a Malcolm X, sono nella storia del giornalismo, ma da tempo la sua stella si era appannata, gli ascolti erano in caduta libera. Nell'ultimo anno sono addirittura dimezzati, da 1,35 milioni di spettatori ai 674.000 medi dell'aprile-giugno 2010. Una crisi che non è solo dello show delle 9 di sera, ma che coinvolge l'intera CNN, diventata, a dispetto del suo grande prestigio internazionale, il fanalino di coda delle reti informative cable. Nel prime time serale, la rete fondata da Ted Turner è ormai ridotta a 569.000 spettatori, contro quasi 2 milioni della Fox, la rete degli arciconservatori militanti controllata dalla News Corp di Murdoch, mentre anche la MSNBC, il network in mano ai radicali del fronte progressista, ha fatto il sorpasso, 760.000 spettatori medi. La CNN sta cercando di reagire cambiando tutti i suoi nomi di punta nelle ore critiche. Lou Dobbs, l'anchor che andava in onda dalle 7 alle 8 con i suoi monologhi autarchici, invettive a raffica contro gli immigrati e i mercati senza barriere, è fuori da tempo. Campbell Brown, la giornalista che conduce l'ora successiva, 8-9 di sera, lascerà a fine luglio. «Me ne vado per gli ascolti deludenti», ha detto lei stessa senza tanti giri di parole. Nel tentativo di attirare l'attenzione degli spettatori, la CNN la sostituirà con un personaggio noto ma anche controverso, l'ex sceriffo di Wall Street ed ex governatore dello stato di New York, Elliot Spitzer, costretto alle dimissioni 2 anni fa dopo la scoperta di una sua relazione con una prostituta. L'eredità più difficile, però, è proprio quella di Larry King. Katie Couric, la giornalista della CBS, famosa per interviste come quella che durante l'ultima campagna elettorale mise in difficoltà Sarah Palin, avrebbe risposto con un no grazie ai sondaggi della CNN. La rete comunque starebbe pensando soprattutto a giornalisti che hanno fatto il salto nell'infotainment, più trattenimento che informazione, come Piers Morgan, inglese, ex direttore di tabloid britannici, News of the World, Daily Mirror, ormai noto al pubblico USA soprattutto come giudice nello show televisivo America's Got Talent. Si parla anche del conduttore di Survivor, Jeff Probst, mentre lo stesso King ha proposto Ryan Seacrest, il presentatore di American Idol, seguitissima saga della ricerca di talenti televisivi. Insomma, quello che rischia di andare smarrito con l'uscita di scena di Larry King non è solo la professionalità di un vecchio ma vulcanico istrione. È tutto un modo di intervistare e di intendere il giornalismo. Larry King è sempre stato personaggio, ma proprio per questo non ha mai avuto bisogno di mettere troppo di se stesso nelle sue interviste. Ha sempre seguito 3 regole semplici. fare domande oggettive, non tendenziose, parlare sempre molto poco, lasciando all'interlocutore tutto il tempo per rispondere, mettere l'intervistato a suo agio, cercare di farlo aprire, di far venire fuori aspetti inediti della sua personalità. Giornalismo vero, insomma, tutto il contrario dei programmi zeppi di arringhe politicizzate che gli hanno tolto lo scettro nel prime time. Sean Hannity, il conduttore che si confronta con lui dagli schermi della Fox, è un bisonte della demagogia conservatrice, mentre a sinistra scalpita con una dialettica altrettanto faziosa Rachel Maddow. Rachel è il bulldog dei liberal che nel suo show attacca a testa bassa non solo i conservatori, ma anche lo stesso Barack Obama, accusato di essere un progressista di cartapesta, uno che ha ingannato i suoi elettori. Larry King uscirà di scena a settembre. Resterà nella scuderia della CNN, curerà qualche servizio speciale, ma ha promesso che si dedicherà soprattutto alla famiglia, soprattutto alla moglie, che aveva deciso di lasciare e alla quale invece si è riavvicinato dopo il tentato suicidio. Il suo ritiro è un evento naturale, 53 anni sulla breccia forse sono stati anche troppi, ma la sua decisione e la scelta che verrà fatta dalla CNN hanno un peso non irrilevante sul futuro del giornalismo televisivo americano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Larry King lascia il suo show di Massimo Gaggi dal Corriere della Sera del 1 luglio. Secondo uno studio, Cleopatra non morì morsa da un'aspide, ma bevendo un mix di oppio e cicuta. Uno storico e un tossicologo smentiscono il racconto di Plutarco che dal 30 a.C. si studia anche a scuola. Il suo naso resterà simbolo immortale del profilo femminile perfetto. I suoi amori con Giulio Cesare e Marcantonio rimarranno love stories leggendarie dell'antichità. Ma la vicenda del suo suicidio va riscritta da cima a fondo. Di chi parliamo? Di Cleopatra, è ovvio. La mitica ultima regina dell'antico Egitto si uccise per non essere portata prigioniera a Roma come bottino di guerra. Ma la versione della sua morte finora tramandataci, da Plutarco fino ai mitici film di Hollywood, va riletta. La tradizione ci narra infatti che Cleopatra si tolse la vita procurandosi il morso di un'aspide, o meglio, di un cobra egiziano. Non è vero, sostengono lo storico dell'antichità Christoph Schaeffer e il tossicologo Dietrich Mebs. Il veleno del serpente avrebbe procurato a Cleopatra una morte dopo ore di sofferenze atroci, e lei lo sapeva. Probabilmente si fece confezionare in corte una pozione velenosa, un misto di oppio e cicuta per un addio indolore alla vita, ma lasciò istruzioni di costruire la leggenda del morso del serpente per restare nel ricordo dell'eternità. Da oltre 2000 anni, la leggenda di Cleopatra ci è tramandata in innumerevoli libri e film di Hollywood, da Plutarco all'interpretazione di Liz Taylor. Ricordiamo la storia, brevemente. Il regno di Cleopatra era alla fine. Il suo amante, Marcantonio, sconfitto da Ottaviano nella guerra civile seguita all'assassinio di Cesare, si era tolto la vita. Era l'agosto dell'anno 30 a.C. Cleopatra si era rinchiusa nel suo palazzo. Sapeva che la sua sorte era segnata. Essere presa prigioniera e tradotta a Roma nel modo più umiliante dai romani vittoriosi. Cosa fece allora la regina più bella del mondo antico? Secondo la versione tradizionale, le fu portato un cesto di fichi freschissimi, in cui era nascosto per sua volontà il serpente che le dette il morso letale. «Non sta in piedi!» sollevò dubbi anche nell'era antica, dicono Schaeffer e Mebs. Con solidi argomenti scientifici. Primo, un serpente velenoso, con le temperature caldissime di allora, non sarebbe stato tranquillo sotto un cesto di fichi. Secondo, per essere sicura di morire col suo morso, Cleopatra avrebbe dovuto premergli le ghiandole benefiche. Terzo, e più importante, il veleno di un serpente causa la morte dopo 30 minuti o dopo ore di atroci sofferenze. Paralizza subito nervi e muscoli, ma non il cervello. Cleopatra era venerata come Iside, spiegano i due ricercatori tedeschi. Messa con le spalle al muro dalla storia, dalla vittoria militare di Ottaviano, non voleva sopravvivere, ma era decisa a crearsi un ricordo di leggenda. La morte della discendente di Iside causata dal morso d'un serpente sarebbe stata vista dai suoi sudditi come segno della discendenza divina della regina. ma con ogni probabilità, sostengono Schaeffer e Mebs, Cleopatra si fece preparare una pozione velenosa per berla e trovare una morte indolore. Alla sua corte, gli esperti in veleni abbondavano, nota Schaeffer, e Cleopatra era una donna troppo intelligente per affrontare una morte atroce come quella del veleno d'un serpente. Decise, insomma, di mentire nel momento supremo, di togliersi la vita lasciando ai posteri una falsa versione sulla sua morte. Menzogna gigante, ma via. Che cosa non si perdona a una donna bellissima e geniale? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tarquini Non fu l'aspide, Cleopatra morì bevendo cicuta, da Repubblica del 28 giugno.